Italia in controluce, la politica nel tunnel. Dai, facciamolo tutti un gesto di amicizia. No, non dovevo parlare. Ma l'hai fatto una parola. Allora scusi, ecco, scusi. Allora impedisca a loro di fotografare noi, come noi non possiamo parlare con loro. Ah, visto, bravo. Vieni qua, un attimo. Oh, ma che c'ha? Vanno uscito le bocche stamattina. Scene di ordinaria follia, davvero le potremmo chiamare, quelle di ieri all'Hotel St. John a Roma, ve le abbiamo fatte sentire. Hotel St. John, dove si erano riuniti i neoeletti grillini, neoparlamentari che sono tornati anche oggi a riunirsi, ma la giornata va davvero raccontata perché ci sono alcune sorprese. Insomma, tutti i giornalisti si erano presentati lì al St. John, si sapeva che c'era la seconda giornata di riunione, una riunione organizzativa in cui insomma non si entrava poi nel merito delle politiche, ma comunque una riunione interessante da seguire perché sarebbe stata la prima volta, è stata ieri la prima volta in cui tutti i neoeletti si sono visti, si sono dati appuntamento, si sono presentati, insomma si sono conosciuti anche fra di loro. Allora cominciamo a raccontarla questa giornata con la nostra Alessandra Schepisi, che è puntuale anche lei come tutti gli altri colleghi che tentano di fare il loro lavoro, perché non cerchiamo di fare nulla di più che raccontarvi che cosa succede. Si è presentato all'Hotel St. John, vero Alessandra? Eh sì, buongiorno Piera, è così. Questa mattina nuovo assedio dei giornalisti all'Hotel St. John, questo albergo a 4 stelle a pochi passi da San Giovanni, dal quale poi tra l'altro abbiamo seguito i risultati delle elezioni, e si pensava che la seconda giornata di riunione si fosse svolta, si svolgesse lì. Si pensava all'inizio questo, poi alcuni indizi ci hanno fatto pensare al contrario, perché si è sparsa notizia di un grave lutto familiare che ha colpito Grillo, la morte del suocero iraniano deceduto ieri sera. Si era sparsa dunque la notizia di un rinvio della sua presenza a Roma e poi di un rinvio della stessa riunione, tant'è che al St. John ci avevano detto che non c'era nessuna sala prenotata. I grillini, tra l'altro alcuni grillini che avevano trascorso la notte lì, avevano lasciato le valigie nella hall e uscendo ci hanno detto che sarebbero andati a fare una passeggiata, forse a registrarsi alla camera. E tra l'altro, piccolo particolare per inciso, siamo venuti a sapere che tutte le prenotazioni delle camere erano avvenute da parte dello staff e mai dalle singole persone, che però avendo prenotato in gruppo comunque avevano potuto usufruire di un buono sconto. E dunque questa è la prima parte della giornata, e poi questo sempre per sviare i giornalisti, perché naturalmente se si fosse saputo che la riunione era lì, poi si sarebbe sparsa la voce, sarebbero arrivati tutti lì, insomma. Certo, una sorta di depistaggio, ecco. E poi che è durato però poco, veramente poche ore, tant'è che poi è arrivata la notizia invece di un arrivo imminente di Grillo e di Casaleggio a Roma, e anche il nome della nuova location, che è un altro albergo sempre comunque vicino al St. John, sempre un hotel a 4 stelle, l'Hotel Universo, ecco. Sì, però prima di arrivare all'Hotel Universo, dove poi ti sei trasferita tu con tutti gli altri poveri colleghi giornalisti che, ripeto, in realtà stanno solo tentando di raccontare quello che accade, alcuni grillini sono usciti, no, stamattina dal St. John, e ora sentiamo che cosa vi hanno detto. Praticamente ci siamo conosciuti e ci siamo divertiti, via. È stata un'assemblea studentesca, al momento tutti a fare una passeggiata per Roma. È un'assemblea, ci pagano apposta per rimanere in assemblea e discutere, e quello sarà un punto trasparente e aperto per fare questo. Ci siamo incontrati ieri con calma, una parte. Cioè non eravamo tutti, ci incontreremo tutti, parleremo. Basta. Ma e poi vi diremo tutti insieme? Non lo so, ci stiamo organizzando, cioè, per veramente... il contrario, siamo in tanti, siamo più di 160 persone, quindi anche per noi ci vuole tempo di contattarci, di incontrarci, di trovare un luogo, poi diremo tutto. Ecco, all'inizio sentivamo dalle voci raccolte, c'era qualcuno che parlava di uno zoo, in effetti somiglia un po' a uno zoo, no? Dove i grillini fotografano i giornalisti fotografano i grillini, non si capisce più chi dei due faccia notizia, insomma, grillini che peraltro hanno ricevuto, tanto per cambiare anche in questa occasione, l'indicazione di non parlare con i cronisti, addirittura con scene abbastanza ridicole, gente che negava di essere stata eletta, gente che non voleva dare manco il suo nome, come se insomma avesse qualcosa da nascondere nel dare il proprio nome. Alessandra? Eh sì, certo, in realtà tra l'altro ecco, forse poi ascolteremo anche il contributo di Sara Parlini, che non è una neoparlamentare toscana, che braccata ai giornalisti ha detto: ma insomma, siete voi a circondarci quando dovremmo essere noi a circondare il Parlamento. In ecco, realtà, la vogliamo sentire allora. Sentiamola, Alessandra. Allora, sì. Anche voi nel vostro interno avete un sacco di problemi. Io conosco persone che fanno il vostro lavoro, che per ogni articolo pigliano 5 euro, 10 euro e magari il loro direttore piglia cifre astronomiche e i giornalisti, quelli che magari si vedono e si sentono più, pigliano cifre astronomiche. Il problema non ce l'abbiamo solo noi, ce l'avete anche voi. Se voi non fate il vostro tsunami all'interno del vostro, però del il vostro nostro gruppo, lavoro, sì, il ma nostro il vostro lavoro. Fare domande, eh? Sì, ma infatti cioè, forse è bene che cominciate a farvele anche fra di voi. Ecco. E questo è anche vero, insomma, no? La casta dei politici, ma anche la casta dei giornalisti. E, Alessandra, fra un po' ci risentiamo, perché appunto tu sei all'Hotel Universo, dove alla fine sono arrivati, insomma, Grillo, che sembrava non dovesse arrivare per via del lutto familiare, invece, ed è arrivato anche Gianroberto Casaleggio. E allora ascoltiamo insieme questo ritratto che ne ha realizzato Valentina Furlanetto. Il blog è un punto di raccolta di comunità che non hanno voce. Lei ha parlato di P2, ovviamente è una figura retorica che ha utilizzato Grillo. In questo caso è veramente il contrario, no? Perché si parla di una roba totalmente trasparente in cui tutti sanno chi sono tutti. Sì, P3 perché va avanti, lui avanti. 58 anni, un'inconfondibile capigliatura, Gianroberto Casaleggio è il cofondatore del Movimento 5 Stelle insieme a Beppe Grillo. Ma chi è Casaleggio? Del suo passato fanno parte un diploma come perito informatico, qualche esame alla facoltà di fisica e la Olivetti. Dal 2004 ha una sua società informatica ed editoriale, la Casaleggio Associati, di cui è presidente e azionista al 28,5%. Creata con lo stesso team che con Casaleggio lavorava la WebEgg, società controllata da Telecom Italia. La Casaleggio Associati fatturava 1,62 milioni di euro nel 2009, 118 mila euro di utili, tutti distribuiti in dividendi, 1,67 milioni nel 2010, ma ha subito una flessione nel 2011 a 1,4 milioni di euro e perdite per 58 mila euro. La società ha 422 mila euro di debiti, di cui 100 mila verso le banche. Le apparizioni pubbliche di Gianroberto Casaleggio sono state poche in questi anni. L'ultima, quella a San Giovanni a Roma, durante la manifestazione organizzata dal Movimento nell'ultimo giorno di campagna elettorale. Grazie Beppe per le sue parole. Io parlo poco, quindi stasera è una delle pochissime volte in cui mi vedrete parlare. Però oltre alla fantasia e alla creatività abbiamo bisogno di due cose in più. Una è la trasparenza, e insieme alla trasparenza l'onestà, e insieme all'onestà la competenza. Tra i fondatori della Casaleggio Associati c'era anche tale Enrico Sasson, già amministratore delegato per 8 anni della Camera Americana di Commercio in Italia e vicino all'Aspen Institute Italia, think tank tecnocratico. Nel settembre 2012 Sasson ha lasciato la Casaleggio per le polemiche sollevate in rete sulla sua presenza, come ha spiegato in una lettera al Corriere della Sera. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche oggi non sono mancate le interviste di Beppe Grillo sulla stampa straniera, sul New York Times, che titola: non più solo un giullare. Viene definito Grillo il pungolo della politica italiana, e per il quotidiano Grillo ora ha nelle sue mani il destino dell'Italia e in certa misura dell'intera Europa. Invece sul giornale tedesco Bild, pubblicato però un'intervista sul sito di Wired Italia Oggi, destra e sinistra erano già alleati prima con Monti, lo saranno ancora con un altro presidente del Consiglio, Corrado Passera. Ma in chiusura torniamo a collegarci con Alessandra Schepisi fuori dall'Hotel Universo. Allora, la farsa si è conclusa, perché insomma voi siete lì, sono tutti lì, anche i grillini, ma non vi dicono una parola, e soprattutto il congresso, non so come possiamo definirlo, comunque questo incontro verrà dato in diretta in streaming dalle 14 sul loro sito. Alessandra. Sì, questa è una notizia che ci ha davvero spiazzato, un conclave, quindi un conclave aperto, non so come definirlo, perché alla fine tanta segretezza, sulla location, e alla fine invece arriva la notizia che l'evento sarà disponibile sul blog di Beppe Grillo. Del resto il rapporto tra del resto l'avevano detto che ci volevano prendere in giro, per usare un eufemismo, perché i termini usati erano stati ben diversi, ben più volgari, e lo stanno facendo in davvero alla grande. Grazie ad Alessandra Schepisi, che naturalmente ritroveremo nei prossimi GR24, grazie a Valentina Furlanetto per avermi aiutato a realizzare questo approfondimento. Italia in controluce torna domani alle 13:30.